Benvenuti al corso di Kollel Torah, che riprendiamo la Mishnah di Rosh Hashanah e stiamo per concludere il trattato perché siamo arrivati all'ultimo capitolo. Non concludiamo oggi perché abbiamo ancora qualche Mishnah, ma iniziamo a studiare il quarto e ultimo capitolo del trattato di Rosh Hashanah nella Mishnah. Parliamo del suono dello shofar e in particolare cosa accade nel momento in cui il giorno di Rosh Hashanah dovesse venire di Shabbat. Si suona lo shofar o non si suona lo shofar? Allora vediamo di cosa si tratta. La Mishnah dice così: Yom Tov shel Rosh Hashanah, il giorno festivo di Rosh Hashanah, Shechal liyot beShabbat, baShabbat, che dovesse cadere, quindi capitare durante lo stesso giorno dello Shabbat. La domanda sottintesa è: cosa si fa riguardo al suono dello shofar? La prima domanda che ci dobbiamo chiedere è: che problema c'è? È permesso suonare uno shofar o uno strumento musicale rientra nei divieti dello Shabbat? Allora in realtà, per la regola della Torah stessa, non rientra nei divieti. Teoricamente sarebbe permesso suonare lo shofar durante lo Shabbat. Noi però distinto abbiamo detto no, non si suona lo strumento musicale o lo shofar durante lo Shabbat. Perché? Perché di fatto è vietato per un decreto rabbinico. I Chachamim hanno vietato, come molti divieti dello Shabbat, rientrano in una categoria che si chiama Shevut. Shevut vuol dire qualcosa dal quale i maestri ci hanno detto di astenerci perché potrebbe essere, per diversi motivi, perché un motivo perché potrebbe essere simile a uno dei divieti originali della Torah, o un altro motivo perché potrebbe portarci al fare a infrangere un divieto della Torah stessa, o per creare il famoso recinto, quindi deriva da uno dei divieti originali. Ci sono diversi motivi per cui una cosa può essere vietata di Shabbat dai Chachamim. E in questo rientra il suono dello shofar per diversi motivi. E quindi per la Torah stessa sarebbe permesso suonare lo shofar di Shabbat. Ora, quando è uno Shabbat normale, abbiamo il divieto dei maestri che non suoniamo per appunto il divieto rabbinico. Ma quando è Rosh Hashanah abbiamo una mitzvah della Torah di suonare lo shofar. Quindi vuol dire è una mitzvah della Torah contro un divieto dei maestri. Chi dovrebbe prevalere? Secondo voi? La mitzvah della Torah dovrebbe prevalere, teoricamente. Ah, vediamo cosa dice la Mishnah. Questa è la domanda sottintesa. La Mishnah dice: se Rosh Hashanah capita di Shabbat, ba mikdash, all'interno del Bet HaMikdash, aiuto Kim, si suonava lo shofar di Shabbat, di Rosh Hashanah che viene di Shabbat, all'interno del Bet HaMikdash si suona lo shofar. Perché? Non perché prevale la regola della Torah rispetto alla regola di divieto rabbinico. Non è questo il motivo. Il motivo è perché tutti i divieti rabbinici legati allo Shabbat sono sospesi nel Bet HaMikdash. Se noi pensiamo, durante la funzione quotidiana anche dello Shabbat nel Bet HaMikdash, avvengono tante cose che teoricamente sarebbero vietate di fare lo Shabbat, non solamente per divieto rabbinico, ma anche addirittura per divieti della Torah, come la macellazione delle korbanot, dei sacrifici, e tutto quanto che riguarda la funzione che avviene ogni giorno nel Bet HaMikdash, con il Mizbeach, con l'altare e così via, deve avvenire anche di Shabbat. Perché la Torah dice che questo avviene anche di Shabbat. Quindi abbiamo divieto di Torah contro mitzvah della Torah, e la mitzvah positiva prevale in quel caso. Oltre a questo, tutti i divieti rabbinici, come dicevo, nel Bet HaMikdash durante Shabbat sono sospesi. Perché? Perché c'è una questione di base. Il divieto, come dicevo prima, il divieto midderabbanan, cioè il divieto rabbinico, esiste perché? Per salvaguardare in qualche maniera la regola della Torah, quindi per non arrivare ad infrangere la regola stessa della Torah. In altre parole, si presume che una persona possa da una cosa scivolare all'altra e possa dimenticarsi e arrivare al divieto stesso della Torah. E quindi c'è la siepe intorno che è il divieto rabbinico. Nel Bet HaMikdash ci si appoggia alla solerzia dei Kohanim e delle persone presenti che stanno occupandosi in maniera attenta di quello che devono fare e che quindi non abbiamo il timore che andranno a scivolare in un divieto. Di conseguenza non è necessaria la siepe all'interno del Beit HaMikdash. Uno che fa le sue cose nella vita normale e i Chachamim dicono guarda questo comportamento potrebbe portare a questo, quindi evitiamo anche il primo, anche se per la Torah non è vietato, diventa un divieto rabbinico. Nel Beit HaMikdash, luogo in cui dobbiamo prestare massima attenzione a quello che stiamo facendo, in generale si dice che i Kohanim Zerizim, i Kohanim sono solerti, cioè stanno facendo le cose non in maniera distratta, ma in maniera molto incisiva, chiara, attenta, non abbiamo questo timore. E quindi la regola generale dice En Shevut Bamikdash. Divieti rabbinici legati allo Shabbat sono sospesi nel Beit HaMikdash. Di conseguenza, qualora lo Rosh Hashanah venisse di Shabbat, nel Beit HaMikdash si suona lo shofar. Però, dice la Mishnah, avalloba medinah, ma non nel resto del paese. Ci sono diverse interpretazioni di queste parole della Mishnah. La interpretazione che seguiamo adesso è che il suono dello shofar è permesso solamente nel Beit HaMikdash, ma non nel resto della città di Gerusalemme e non nelle altre città di Eretz Israele, chiaramente fuori da Eretz Israele. Ora, questa era la regola finché c'era il Beit HaMikdash. Ok? Cosa succede dopo la distruzione del Beit HaMikdash? Ora vediamo. Mi shecharav Beit HaMikdash, dice la Mishnah, dal momento in cui è stato distrutto il Beit HaMikdash, Hitkin Rabban Yohanan ben Zakai, il grande maestro, il capo del Sinedrio, del Sanedrin, Rabban Yohanan ben Zakai, che era il capo dei Chachamim, il Nasi, il presidente del Sanedrin, al momento della distruzione, e chiaramente nei momenti successivi, Hitkin fece una takana. La takana significa una nuova istituzione di legge, e cioè Sheyu Tokin Bechol Makom Sheyesh Bo Bet Din, che si suoni lo shofar, visto che non lo si poteva suonare nel Beit HaMikdash che era già stato distrutto, quindi se venisse Rosh Hashanah di Shabbat, lui ha istituito che si faccia il suono dello shofar in ogni luogo in cui c'è un Beit Din. Cosa vuol dire un Beit Din? Tutti sappiamo che Beit Din significa una corte rabbinica, però lui si sta riferendo ad una corte rabbinica di tipo specifico, cioè almeno tre maestri, dayanim, giudici, che sono stati investiti in questo ruolo da, a loro volta, dei giudici della generazione precedente e loro, a loro volta, fino a Moshe Rabbeinu ininterrottamente. Questo si chiama la Semichah. La Semichah, cioè l'investitura per ricoprire il ruolo, per rientrare, per avere la nomina di Dayan, di giudice, con la Semichah, quindi con questa investitura, solo se è dai tempi di Moshe ininterrottamente. Dove c'è un Beit Din di almeno tre di queste persone, allora Rabban Yochanan ben Zakkai dice consideriamo che anche lì c'è una massima attenzione e quindi si farà lo shofar di Shabbat in quella situazione. Come minimo, ok? Però, Amar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, io ho una tradizione diversa riguardo a questa istituzione di Rabban Yochanan ben Zakkai, e cioè, Lo hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai ella beyavne bilvad. La takana la legge istituita da Rabban Yochanan ben Zakkai non è stata riferita che alla città di Yavne. Che vuol dire la città di Yavne? La città di Yavne era la sede del Sanedrin dopo la distruzione del Beit HaMikdash. Già da prima della distruzione la città di Yavne era un luogo in cui c'erano molti Chachamim, e Rabban Yochanan ben Zakkai, quando ebbe modo di parlare, di tenere una conversazione con Vespasiano, che diventò subito dopo l'imperatore e mandò Tito al suo posto, quindi prima della distruzione, chiese a Vespasiano di risparmiare Yavne. Sapeva che Gerusalemme sarebbe stata distrutta, gli ha chiesto una richiesta, lui gli ha detto cosa vuoi, e gli ha fatto la richiesta di risparmiare Yavne e i maestri di Yavne. E di conseguenza è stato così, perché la risposta è stata positiva a questa richiesta, e Yavne è stata risparmiata, e la guida, diciamo, di Am Israel è potuta andare avanti con il Sanedrin con sede a Yavne. Secondo Rabbi Elazar, qui citato, Rabban Yochanan ben Zakkai diceva non che ogni luogo dove c'è un Beddin, dove ci sono tre che hanno la Semichah, si può suonare lo shofar di Shabbat, ma solamente nel luogo fisso del Sanedrin, che non è solamente Yavne. Quando erano a Yavne, ma poi sono stati anche in luoghi diversi, ma se è il luogo fisso della sede del Sanedrin, allora questo è un luogo in cui non abbiamo il timore dell'infrangere le regole dello Shabbat e quindi si suona lo shofar di Shabbat. Questo secondo Rabbi Elazar. Amrulo, dissero a Rabbi Elazar, quello che vi ho anticipato, Echad Yavne ve Echad kol makom shi yeshbo beddin. Non solamente Yavne, ma ogni luogo in cui c'è il beddin. Ora, noi dobbiamo un attimino pensare e concludiamo questa Mishnah. La Mishnah ha detto prima, Rabban Yochanan ben Zakkai disse che ogni luogo in cui c'è un beddin si suona lo shofar di Shabbat, vero? Sì. Poi Rabbi Elazar ha detto no, Rabban Yochanan ben Zakkai ha detto questo solamente riguardo Yavne. Quindi fino a qui abbiamo una discussione. Prima posizione è ogni luogo in cui c'è un beddin, seconda posizione è solamente Yavne, quindi la sede del Sanedrin, ok? Poi abbiamo un'altra frase dove subentra, sembra, una terza opinione che dice no, sia Yavne che ogni posto in cui c'è un Beddin. Che differenza c'è tra quest'ultima battuta e la prima che abbiamo detto ogni luogo in cui c'è un Beddin? Sembra la stessa? Non può essere la stessa. Perché? Perché la Mishnah non funziona così. La Mishnah non dice parole superflue. Se fosse la stessa, non sarebbe stata aggiunta questa frase. Non sarebbe menzionata. Vuol dire che questa è una terza opinione. A noi sembra che è la stessa alla prima. Ma in realtà i commentatori spiegano che non è così. La prima opinione ritiene che ogni luogo in cui ci sono tre persone che hanno la smicha, quindi possono formare un beddin, lì si suona lo shofar, anche se non è la sede vera e propria. Se per caso, per dire, per caso sono capitati tre maestri che possono formare un betin, allora si può suonare lo shofar lì di Shabbat. La terza opinione dice no. È vero che non è limitato a Yavne come città, ma è sì limitato al luogo fisso del betin del Sanedrin importante. Quindi se è Yavne o un altro posto in cui c'è la sede del Sanedrin fissa, ma non che per caso ci sono tre, come diceva la prima opinione. Quindi la prima opinione dice qualsiasi luogo in cui ci si può formare un beddin, si può suonare lo shofar di Shabbat. La seconda opinione, Rabbi Elazar, dice no, solamente Yavne. La terza opinione è un po' un compromesso tra le due, dice non ogni luogo che ci sono tre, ma non solo Yavne, ogni luogo in cui il beddin è rimasto fisso. La sede del beddin. Lì si può suonare, si deve suonare lo shofar di Shabbat. La prossima Mishnah ci dà alcune altre indicazioni riguardo la differenza tra come era l'uso dello suono dello shofar quando c'era il Bet HaMikdash a Jerusalem, e come invece divenne dopo, quando la sede del Sanedrin si trasferì a Yavne. Questo vedremo, se Dio vuole, la prossima volta.